quanto è bello, spira tanto sentimento. Stuccia radio, ma senti si è sciurra arance, lo profumo a così fino, tinto cuore fredeva, e tu dici ho parato addio. Scurda, Catarina.

Quanto voglio bene

l'aurora di bianco vestita, già l'uscio dischiude al gran sole, di già con le rose sue dita, carezza dei fiori lo stuore, commosso da un fremito arcano, in torno al creato già par, e tu non ti desti ed in vano, visto qui dolente a cantare. Metti anche tu la veste bianca e scudi l'uscio al tuo canatore. Non sei la luce manca, ove tu sei nasce l'amore.